24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, diciamo, per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E adesso siamo alle europee, se no, secondo i nostri sondaggi per le europee siamo circa all'85%, allora devo fare qualcosa per abbassare il gradimento, non so, farò qualche cosa di clamoroso, mi metterò della droga in macchina. E Beppe Grillo, vabbè, la vede in maniera ottimistica, 85%, ecco la sua solita ironia. Buongiorno cari italiani, alle 6:33 minuti. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha già twittato. Quindi lo salutiamo, sarà certamente all'ascolto di 24 mattino. Ciao Matteo, eccoci qua. Tanto noi si corre, si va avanti, ci si prende un po' questo tipo di confidenza. Allora ha twittato poco fa Matteo Renzi: il DEF mantiene tutti gli impegni che ci eravamo presi. Hashtag, che sono quelle cose lì un po' strane, alla faccia dei gufi. Paola Saluzzi, buongiorno! Alla faccia dei gufi, ha scritto il presidente. È fantastico, ma è così, bene. L'ho appena ritwittato. Inizia a pagare chi non ha mai pagato. Alla faccia dei gufi, hashtag del presidente del Consiglio. E io, da fiera nipote di sommergibilista, dico macchine avanti tutta. Buongiorno! Macchine buongiorno, avanti tutta. Ma stamattina avremo un gran finale prima delle 7 qui. No, guarda, io la voglio... No, io te lo dico subito che gran finale la voglio liquidare su, la voglio liquidare subito questa faccenda, perché no, è una faccenda veramente che mi sta qua sul gozzo, come dire. Allora, ma la affrontiamo subito, guarda, perché chi se ne frega del DEF, dobbiamo chiarirla subito questa cosa. Tanto ho già capito dove vuoi andare a parare, io ce l'ho già qua, guarda, ma senti il rumore, che non è il rumore di carta del Corriere. I rumors sono altri. Cioè, scusate, c'è Miriam Lucchetti, non si può vedere, che mi dice: fa vedere cos'è al di là del vetro, da 10 metri, fa cos'è, ecco. Cos'è? E facciamo le carte da parati, ovviamente la gente non sta capendo nulla di ciò di cui stiamo parlando, ma adesso lo facciamo capire subito. Prima saluto Peter Bescapè in regia, apriamo il Parlamento. E saluto subitissimo a questo punto il caffè volentieri a tutti quanti. Il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, eccolo qua, direttore. Ale. Allora, Luca Dini, buon tempone. Ha fatto una copertina a me dedicata. No, scherzo. Allora, ha messo Roberto Bolle in copertina, che, come dire, si nota molto la statua di cavallo dietro, perché no, è un Roberto Bolle seminudo, possiamo dirlo? Nudo. Sì, nudo però di spalle, ecco, diciamo così, nudo ma di spalle. E ieri diceva, cos'è che hai twittato ieri? Perché io penso che sì, cos'è, mi arrabbio. Sono stato provocato da un tuo fan. Sì, sì. Che ha detto che ha scritto che non sapeva che cosa avresti fatto per finire tu stesso in copertina, insomma. E convincere Paola che sei all'altezza, anzi sei superiore. Ah, no. Sì, sì, certo. E io ho detto che mi ricordavo dall'altra volta che, insomma, questa tartaruga ti faceva abbastanza rosicare. Esatto, ricordavo dall'altra volta, da una vecchia copertina, che, ma non è che mi fa rosicare, essendoci Photoshop. Buongiorno direttore, va bene, ci siamo così dedicati a quello che dobbiamo fare, volare in edicola e comprare subito. Va bene, eccola lì. Cioè, e quindi l'altro hashtag, sì, oltre alla faccia dei gufi è Alino in copertina. Alino in copertina, certo. certo, certo, mettiamolo bene, subito. Alino, bene, in tra bene. Poco dopo lo faccio proprio. Alino in copertina su Vanity Fair. E vabbè, insomma, quindi la copertina è su Roberto Bolle. Sei tranquilla, Paola? Sei calma? Sono una donna felice. Oltre a questo, da leggere tutto, chiaramente, ma così era perché anche l'occhio vuole la sua parte. Oh, questo è uno slogan. È uno slogan, mica male. Mica male. Allora, alla faccia dei gufi, avete capito, caro Luca Dini, in un'intervista oggi con Aldo Cazzullo, ormai il suo confessore sul Corriere della Sera, cosa ridi, Paola Saluzzi? Un po' è così, insomma, ogni tanto Matteo Renzi fa questi provvedimenti, poi parla con Aldo Cazzullo, è l'appuntamento delle 10 di sera. E Aldo Cazzullo ha detto, avreste dovuto vedere la faccia di Patuelli, che è il capo delle banche dell'ABI, quando l'ho ricevuto stamattina e gli ho detto della tassa sulle banche, avreste dovuto vedere nella faccia, ha detto a tutti gli italiani. Caro Lucadini, va avanti così, dice, alla faccia dei gufi, ce l'ho fatta. È un atteggiamento però, giusto? Sì, è giusto, perché è vero, perché i gufi c'erano, ci sono, c'era chi sosteneva che non avrebbe fatto niente. Io personalmente sono sempre stato di idea leggermente diversa e comunque, che se ne dica, questo è un altro piccolo, o neanche tanto piccolo, passo avanti. Sì, c'è stato questo stupore, no? Questo miliardo chiesto alle banche. Oggi ovviamente Patuelli delle banche, intervistato dalla stampa, dice ma come, non aveva detto che non voleva mettere le tasse? Noi chi siamo? Cioè, perché le banche, come dire, è sottoscritto, le banche sono brutte, sporche, cattive, quindi le tasse lì non vanno bene? Paola, però la questione... Intanto alla faccia dei gufi uno lo pensa e non lo dice, e c'è invece chi lo pensa e lo dice, e quindi la chiarezza, spalancare la finestra e dire salve, buongiorno, sono qui, forse è anche pagante, insomma, no? Insomma, ribadisco, ho visto con i miei occhi e sotto i miei occhi gente che sperava che la Concordia scivolasse in mare la notte in cui Gabrielli e tutto il team italiano e straniero la stavano risollevando dalle acque. Ho visto gente gufare. Quindi i gufi esistono. L'ho vista, poveri gufi che sono animali nobilissimi, sì. Ma l'ho visto con i miei occhi. Quindi questa gente c'è, e quando ce la fai è il caso di dire ti è, alla faccia vostra ce l'ho fatta, appunto. Poi è chiaro che adesso, dal dire al fare, c'è di mezzo il mare si sta accorciando, tutti sono chiamati, ribadisco tutti, quindi... è comprensibile ovviamente anche il discorso delle banche, però tutti sono chiamati a dare qualcosa, certo, e a fare qualcosa, certo. Comunque alla faccia dei gufi. E poi ha rinnovato questa idea, no? Io ho notato da due giorni che ormai viene ripreso, non so se Luca tu come direttore vedi sempre queste foto in cui è dinamico, è in movimento, no? Viene riproposto, sì. C'è questa foto in cui corre, io ne ho fatta una simile, l'abbiamo messo sul profilo Twitter da veri disperati che corre guardando l'orologio, e lui lo conferma al Corriere: io mi muovo, appena raggiungo un obiettivo rilancio subito, no? Infatti è già lì a twittare, vedi? A twittare alle 6:30 del mattino. Vabbè. Aspettiamo la tua tartaruga anche. Aspettiamo. Ma Dio benedica, sì, Dio benedica. Sì. Velocità, la comprerò. Vedremo cosa succederà, velocità. La comprerò oggi, una tartarughina, poi te la faccio, poi la faccio vedere a tutti. Vabbè, quindi soldi dalle banche, dice non è vero che tasserò la sanità, è un Matteo Renzi che guarda i gufi in faccia, cara Paola, e gli dice io ce la faccio. Questo così è l'atteggiamento. Siamo qui non aspettando il concetto della finestra in sinistra, intanto perché c'è un bisogno di una velocità, c'è un paese che ha bisogno di azioni veloci e pronti via. E poi è il solito Renzi che scherza. Ieri col ministro Padoan in apertura sulle quattro giornate date a destro il calciatore della Roma, visto che Padoan è della Roma. La parola al ministro Padoan, se ancora voglia di parlare dopo la definizione di laziale. Come sa il Presidente del Consiglio, io ho in tasca la lettera di dimissioni se continua a provocarmi sul terreno calcistico. Stamattina, quando mi ha detto che Destro aveva quattro giornate di squalifica, pensavo scherzasse. Purtroppo non è così. Mannaggia ragazzi, non fanno ridere, no? Un ministro dell'economia non fa ridere quando fa le battute, Luca Di Cerangelo. No, però, cioè il ministro dell'economia per costituzione non fa ridere quando fa le battute, manco... È un manco... po' come la professoressa di matematica, no? Sì, esatto. Quando provasse a scuola a essere simpatica non ce la faceva. Però la fa... Cioè, ma ho capito, ma c'era il gelo, ho già qua la lettera di dimissioni in tasca, e la gente stava già dettando all'ANSA scoop, no, era una battuta, perché non si... perché vabbè, questo è, e poi vabbè, c'erano anche gli auguri alla Madia, al ministro Madia, che è diventata bis mamma. Lo dico volentieri facendo anche gli auguri oggi a un altro ministro, a Marianna Madia, che ieri ha partorito e che quindi ha una piccola bambina, non so se la porterà anche in Consiglio dei Ministri, in quel caso la accoglieremo. Vabbè, la accoglieremo in Consiglio dei Ministri. No, a proposito di mamme, però io voglio dare subito sulla notizia, tanto il DEF poi lo approfondiremo alle 8:15 eccetera, su una notizia e voglio il vostro parere. Allora, è il secondo caso in questi giorni di una soluzione per una coppia che è andata in questo caso in India è diventata, insomma, sono diventati genitori, la mamma con l'utero in affitto, cioè questa pratica, so che è brutto dirla così, si dice così, cioè nel senso, facendo fare la gravidanza a un'altra donna. Questo è possibile in alcuni paesi, è possibile in Ucraina, è possibile appunto in India. Cara Paola Saluzzi, al di là della soluzione, perché avevano violato l'anagrafe secondo l'Italia, vabbè, ma la soluzione, cioè chi se ne frega la questione tecnica, mi interessa la questione etica. Ieri facevo una lunga chiacchierata con la LICITO, Associazione Laidi, Associazione Amici dei Bambini, è una scelta secondo me durissima, che per 9 mesi deve far sì che tu sia strettamente convinto di quello che stai facendo, perché ne passano 9, ovviamente. Io parlo da non mamma, Alessandro, ci sono tanti bambini da adottare in giro, tantissimi. La considero una scelta molto complessa quella di avere un utero in affitto. Quando ci sono bimbi, uno dice non è mio figlio, tecnicamente il DNA non è quello. Tecnicamente è lì proprio, ma neanche proprio la gravidanza, cioè quei 9 mesi. È un bambino fatto con l'utero in affitto, piuttosto che non un bambino che già c'è. Io ti posso dire quello che penso io, sì, io andrei su un bambino che già c'è. Un bambino che già c'è. No, sono perché sincera, chiaramente poi... noi ne abbiamo parlato anche qui di recente, e c'è da parte di chi è contrario a queste tecniche anche la preoccupazione che, insomma, parliamoci chiaro, perché una donna deve prestare il proprio corpo per una gravidanza? Lo fa per soldi, no? Ci sono stati casi stupendi, sono sorelle che... Sì, la sorella magari. Per carità, però lo fa per soldi. E si rischia di avviare un mercato, ribadisco, oggi quei due genitori hanno il loro figlio tra le braccia e per arrivare a una scelta del genere chissà che difficoltà immensa hanno avuto, però rischi di alimentare un mercato pericolosissimo. Certo. Luca, tu che ne pensi? Penso che è tutto vero quello che dice Paola, il punto è che l'adozione deve diventare possibile sul serio. Ah, certo. Perché adesso è troppo complicata e questa è una delle cose di cui ci piacerebbe che si occupasse, sì, quando ha fatto tutto il resto, che certo è fondamentale, è importante. Il governo, è vero. Il governo e il Parlamento, perché ne parliamo da tanto tempo, è un po' uno scandalo. Adottare in Italia... L'unica cosa che funziona vagamente è l'adozione internazionale, comunque le coppie, sì, che... Anche la semplice dichiarazione di, come si dice, di idoneità all'adozione, sì, che per carità è giusto in qualche modo controllare quali sono le aspirazioni delle coppie, però ci sono degli interrogatori che sono veramente ridicoli, anche un po' morbosi, cioè, sì, c'è anche un po', no, quella cosa lì non è, no, ma è chiaro, c'è un particolare su questo, Paola, giusto per condire la vicenda, che lei, non so se può suscitare un'altra considerazione, che lei la donna ha 54 anni e questo dell'utero in affitto in India, ecco, per carità, poi voglio dire, in India era possibile, è possibile, e così è stato. questo... Alessandro, tutto si è spostato in avanti. Oggi una donna arriva, lo dichiaro con piacere, a 50 anni e dice, ok, e quindi adesso che cosa, poi che cosa faccio? Allora devo organizzare, devo fare. Io quest'anno li compio tra un mese. Se penso ai miei, e ringrazio, ma se penso alla mia età di questo momento e penso a che cosa io voglia ancora fare, ma c'è un mondo davanti a me. Questo allora certamente. Forse ci si sente ancora, per talune donne, in forza per poter dire faccio un figlio. Anche lì, grandissimo coraggio. Certo. Grandissimo certo. coraggio. Tu dici, se ti capita, succede. Andare sì. a cercare... Dici Luca. Cioè, si fa tante volte il processo a queste donne che decidono di fare una scelta così estrema, no? Però per esempio quante sono le coppie che fanno un bambino per salvare un matrimonio? Quella è una cosa forse, cioè, sicuramente aberrante. No, ma anche questo, tra l'altro anche Fabio ci scrive proprio l'adozione è troppo complicata. Comunque dobbiamo andare al traffico e rientriamo subito dopo. 24 mattino. Angelo dal Molise, dopo i forconi, dopo la zappa, adesso ci vuole la pace sociale. Grazie. Alessandro Mila, io sono tuo padre. Tutta questa gente che difende Berlusconi, ma si rendono conto che Berlusconi ha rubato a tutti noi, non pagando le tasse, ha rubato anche a noi. È condannato, ma basta, deve fare la sua pena. Ma cosa sono tutti questi pietismi? Cosa vuole ancora? Ha rubato a tutti noi. Ma vogliamo dirlo una volta per tutte quanto è buona la Paola Salussi? Ma è una gnocca fuori misura, altro che te, Milan. Sei lì nell'icona di 24 mattina con la camicina azzurra aperta, la faccia da pesce lesso, con quell'espressione, beh, cosa faccio qui? E adesso cosa dico? Boh, chi lo sa? In esclusiva, Berlusconi e Cella verso Renzi in privato. It's not time to make a change. Just relax, take it easy, you are still young, it's your fault, there's so much you have to know. Buy the USA your plane, and the people will complain, but the state of the game have to still remain the same. Ciao! Vabbè, non lo so. Paola. Ma contesto nel ringraziare per il complimento, contesto, no. Ma come cosa ci fai tu con la tua camicina? Ma è giusto, tra l'altro c'è un ascoltatore anche che dice sì, vabbè, bella la tartaruga di bolle, il bicipite belle, le gambe, il bicipite, sì, guarda, il bicipite, bello tutto, ora vogliamo però Paola Saluzzi nuda in copertina. Marco, questo. Mentre un altro ascoltatore scrive, caro direttore, Alino in copertina, che poi sarei io l'unico motivo per cui comprerei fieramente Vanity Fair. Vabbè, insomma, adesso lo esageriamo. E poi abbiamo scoperto che sei figlio di Darth Vader. sono figlio, sì, esatto. Vabbè, cara Paola, tu che volevi fare la dottoressa, si sa, rispondi a questa domanda. La definizione del XX secolo come secolo breve appartiene a A. Michel Foucault, B. Giovanni Sabatucci, C. Eric Hobsbawm, D. Max Weber. Forza. Sono completamente in balia della sua risposta, signore. C'era anche Ernesto Galli della Loggia. Luca Dini, forza, rispondi. No. Vabbè, era Eric Hobsbawm, era uno dei quiz per entrare a medicina. Ah, certo. In testa di medicina è noto, sì. Guarda, quando sei lì poi che fai l'analisi del sangue, se non sai quello è dura, non si sa. Va bene, si fa una puntata su questo. Una volta l'abbiamo fatto con il professor Remuzzi che dice ma com'è possibile fare questi test, poi non si parla neanche ai ragazzi che vogliono entrare a medicina, gli si chiede queste cose un po' così. Vabbè, in realtà io non ho tempo, devo chiudere, allora voglio chiudere con Alessandra Mussolini, è tornata in TV. Sentite, ieri è tornata a Coffee Break sulla 7 e si è presentata così. Le posso chiedere soltanto come sta? Mi sto benissimo, tutto bene? Ho avuto un'influenza intestinale.

Buongiorno. Intanto, lei che è stato al governo, Polillo, questo metodo, questo modo di fare, no, alla faccia dei gufi, come le piace o è un po' troppo sfrontato? Beh, direi che forse è un po' sfrontato, cioè nel senso che capisco anche le esigenze della comunicazione, però anche lì ci vuole un certo equilibrio, almeno dal mio punto di vista. Alla faccia dei gufi, non so. Onorevole Bonafè, forse è questo che non si è ancora capito di Renzi, non gliene importa un bel nulla, insomma, di tutte queste incessature, no? Non è un po' troppo però questo modo? Cioè, più che altro è che sono stati in tanti a scommettere che il governo non avrebbe mantenuto gli impegni presi, e quindi io penso che alla faccia dei gufi sia rivolto soprattutto a loro, sia rivolto a chi oggi sta tirando il freno a mano mentre c'è una classe politica, c'è un Presidente del Consiglio che invece sta premendo sull'acceleratore, perché insomma è da 20 anni che aspettiamo riforme e è iniziato un nuovo corso che invece va proprio in quella direzione, e soprattutto è stato presentato un documento di economia e finanza che insomma dà delle risposte importanti. Dà delle risposte. Lo stesso Renzi adesso dice staremo a vedere, così entriamo nel cuore del provvedimento, mentre ricordo l'altra iniziativa, questo è tu cosa taglieresti, anzi Polillo, glielo chiedo subito, anche questa iniziativa l'avevate fatta anche voi al governo Monti, una cosa simile, perché era avevamo fatto una cosa attraverso internet, la possibilità di comunicare, diciamo, che cosa non andrebbe bene prendere quelle segnalazioni lì, quante ne arrivarono? Lei che stava all'economia, ne arrivarono tante? Sì, ne furono molte, però furono un po' estemporanee. Cioè? Ma guardi, non è difficile sapere dove bisogna tagliare, perché se lei considera che la spesa locale è pari al 60% della spesa complessiva, quindi il riordino degli enti locali, soprattutto le municipalizzate, Roma con 60.000 dipendenti, insomma, non è difficile, basta avere la volontà di farlo. Cioè, per esempio, lei troppi dipendenti, il problema è sempre questo, è dei dipendenti pubblici, poi se riqualificarli, se invece fare come nel privato, prevedere anche dei tagli netti, cioè per lei... Anche con un... Sì, ma bisogna entrare in un'ottica per cui, per esempio, le municipalizzate, esiste una geometria terminata. Sono 8.000 le aziende partecipate dai comuni, soltanto dai comuni capoluoghi, non si può andare avanti così. Sforbiciare, è che però si dice da tanto tempo, qui l'onorevole Bonafè rivendica un Renzi che dà l'impressione almeno di farlo, poi ovviamente l'onorevole Bonafè siamo all'inizio di un percorso, non è che è stato fatto tutto, al momento sono, diciamo, le intenzioni queste del governo. Posso dire una cosa, che però, sì, però le coperture ancora non ci sono. Ecco le coperture. Guardi, su questo Renzi ha detto proprio anche una frase oggi a Cazzullo: ascolterò e sono curioso di vedere che succede nei prossimi giorni. Mi pregusto le reazioni degli uccelli del malaugurio. Quelli noi che dice, abbiamo tanta fede. Non ci sono le coperture, annunci. E lui dice le coperture ci sono, onorevole Bonafè. Ma senta, il 18 aprile ci sarà il decreto con nero su bianco anche le coperture, però insomma, ecco, penso che questa sia ad oggi una critica del tutto strumentale. Invece vorrei entrare un po' nel merito anche di questo documento. Lei prima diceva, per esempio, che cosa andiamo a tagliare. Intanto diciamo che una delle principali lotte sarà fatta agli enti inutili, l'abbiamo sentito tanto in questi ultimi giorni. Ci sono, secondo una stima addirittura del governo Monti, circa 500 enti inutili, una stima che risale a qualche anno fa. Niente è stato fatto, per esempio nella riforma che prevede il superamento del Senato è previsto il taglio del CNEL, un ente costituzionale che aveva la funzione di sostenere le proposte di legge. In 50 anni ha partorito 14 proposte di legge e nessuna di queste è diventata legge, e potrei andare avanti a lungo. Cioè, bersaglio saranno, io suppongo, le diramazioni territoriali degli enti centrali. Le do qualche numero: sì, ci sono 100 ragionerie territoriali, ci sono 100 commissioni tributarie provinciali, 100 sedi distaccate delle agenzie delle entrate, insomma, per non parlare delle 32.000 stazioni appaltanti che sostanzialmente fanno più o meno la stessa cosa, centrali d'acquisto, quindi lei capisce che i margini per tagliare la spesa pubblica improduttiva sono notevoli. Quindi su queste cose, il CNEL, insomma, ancora ieri Matteo Renzi si è riconcentrato dicendo a casa si strapperanno i capelli, no, per questo CNEL, e però anche guarda, altre... sono state tagliate anche 4 ambasciate in posti, non so, io non li ricordo nemmeno, tanto per essere uno era chiari. Santo Domingo, pensi la disperazione dell'ambasciatore a Santo Domingo, che vabbè, è un posto dove si sta abbastanza bene, immagino. Comunque, ecco, qui sono i punti dove si può tagliare. Lei, Polillo, a parte l'atto di fede che ha già un po' il 18 aprile è qui dietro l'angolo, è anche quasi Pasqua. No, ma guardi, c'è un'incongruenza. Cioè? Perché lui presenta subito il DEF. Il DEF prevede una crescita dello 0,8%. Quando tutti i centri internazionali prevedono una crescita dello 0,6. Sì, anche quindi questa differenza può essere data soltanto dalla manovra espansiva. Ma la manovra espansiva, se non conosciamo le coperture, non può non essere tale. Però dice l'onorevole Bonafede, aspettiamo il 18, il 18 è tra 11 no, giorni. No, ma non può, perché non è possibile questa cosa. Ci sono delle norme di carattere costituzionale che impongono al governo di presentare al Parlamento un documento completo sulla manovra, non si può andare avanti a spizzichi e bocconi, sennò altrimenti il Parlamento approva in bianco un documento di programmazione senza conoscere le politiche, è una contraddizione in termini. Certo, c'è da dire che l'osservazione che lei fa oggi sul Corriere della Sera la mette nero su bianco anche Enrico Marro, cioè il Fondo Monetario Internazionale per esempio dice crescete meno della Grecia, le previsioni sono appunto allo 0,6%, qui invece nella previsione il DEF è stato fatto sulla previsione di crescita dello 0,8%, ma questo tutti i documenti... Però tutti, anche in passato era così, cioè i documenti di questo tipo vengono fatti su previsioni future che poi in realtà sulla carta magari non vengono confermate, e quindi non è Polillo la prima volta, no, che si adotta. No, ma Tremonti, quando faceva le previsioni, si atteneva strettamente alle previsioni della Commissione europea, proprio per evitare una discussione sul senso degli angeli, perché le previsioni si possono fare in tanti modi, dobbiamo attenderci su una... un obiettivo che è condiviso a livello internazionale. Certo. Detto questo però, io vorrei dopo la pubblicità entrare nel cuore anche di altri provvedimenti, per esempio la questione delle banche. Allora, che cosa ha deciso nel DEF il governo? Le banche contribuiranno all'operazione 80 euro in busta paga, perché poi questo, cari italiani, l'obiettivo finale a maggio, con il prelievo sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia negli istituti, che era previsto al 12%, verrà alzato al 26%. Renzi, in questa intervista oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere, ha detto: avreste dovuto vedere la faccia di Patuelli, cioè il capo del presidente dell'ABI, quando al mattino ieri gli ho detto questa notizia, che prenderemo 1 miliardo con l'aumento di questa tassazione alle banche. Avreste dovuto vedere la faccia di Patuelli. Ecco, vedete anche qui il metodo comunicativo di Renzi, no? Che parla alla gente. Patuelli già alla stampa oggi dice: è una cosa assolutamente inaccettabile, Renzi non vuole alzare le tasse, e che fa? Alza le tasse alle banche, perché le banche sono brutte, de sporche, cattive e devono pagare le tasse per tutti. Speriamo davvero che cambi idea entro il 18. Ripartiamo da qui e con le vostre proposte, anzi, come direbbe Renzi, e tu cosa taglieresti? 24 mattino. Le riforme non sono semplicemente un punto d'orgoglio di questo governo, o vedo che sulle riforme avete aperto il dibattito tra di voi, però un elemento fondamentale, perché ormai l'abbiamo promesso, le riforme sono la precondizione della ripresa economica. Vabbè, insomma, a un certo punto Renzi prende anche, redarguisce i giornalisti, no, che stavano parlando, è così, è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Allora, stiamo parlando con l'onorevole Simona Bonafede del Partito Democratico e con l'ex sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che sta mostrando qualche perplessità. E poi, insomma, tu cosa taglieresti? Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. La mia proposta sarebbe quella di eliminare le liste degli scrutatori come la conosciamo oggi, attingere direttamente alle liste dei disoccupati. Quindi sposteremmo una parte della spesa e si risparmierebbe invece quella parte di permessi che vengono dati ai lavoratori retribuiti nei giorni in cui sono presenti ai seggi. Sì, però non è un grande risparmio per la spesa pubblica, cioè quante volte si dà una volta ogni due anni due giorni di lavoro a dei disoccupati, ecco, non è che però va bene, grazie. Questo, insomma, quando Renzi lancerà questa idea la faccia loro, insomma. Yaya da Milano, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io sono un medico e quindi per quanto riguarda un risparmio in sanità, io ho sempre pensato che le esenzioni per reddito date agli ultra 65 anni, così l'80% di quelli che conosco io come pazienti, è assolutamente un buttarvi i soldi, perché spesso sono persone che hanno sì reddito zero, ma proprietari di case, di immobili, magari intestate a società. Quindi fare un'analisi accurata insieme all'ufficio delle imposte, o meglio anche senza di quello, perché spesso sono persone che in due modi, diciamo, truffano la società. Hanno tutto gratuito, non so se è una cosa conosciuta, ma gli esami, i ticket su tutto, e anche le esenzioni per patologia, darle in base al reddito del paziente, perché se la persona non in base all'età per forza, ma nell'età, per le esenzioni in età. Ci sono adesso anche altre esenzioni, aggiunte adesso, visto che stiamo bene come economia, hanno aggiunto altre esenzioni per i disoccupati, sì. Naturalmente tutti stranieri. Quindi tutti stranieri hanno diritto a fare esami di tutti i tipi e molti ne approfittano abbondantemente dalle feste piedi senza pagare una lira. Va bene, questa è una proposta che lei fa, anche lei provi a girarla al governo quando tra qualche giorno, come ha detto Renzi, lancerà la proposta "e tu cosa taglieresti?". Allora io vorrei tornare e concentrarmi sulla questione delle banche, perché è un punto centrale. Onorevole Bonafè, Renzi che dice avreste dovuto vedere la faccia di Patuelli quando ieri convocato gli è stato comunicato questo, perché questo tra virgolette accanimento sulle banche? Ma accanimento, andiamo ad aumentare il prelievo sulle plusvalenze dopo che c'è stato l'aumento di capitale, lei se lo ricorderà, col famoso decreto Uimo Banca Italia, finanziava esatto con l'aumento di capitale delle banche le esenzioni dell'Imu, e si ricorderà anche tutte le polemiche che sono nate a seguito di quel decreto lì. Mi sembra che il messaggio che viene dato adesso è esattamente il contrario di quello che si voleva far credere. Quando è stato fatto il decreto Uimu Banca Italia si diceva che si dava alle banche, si levava alle famiglie, e questo documento di economia e finanza va esattamente nella direzione opposta, cioè il principio è proprio quello che è una manovra che fa pagare a chi ha di più o a chi non ha mai pagato, come le banche, perché insomma andiamo ad adeguare più che altro l'aumento del prelievo, lo portiamo dal 12 al 26% come c'è in tutta Europa, sì. E quindi a chi non ha mai pagato mettiamo invece nelle tasche di chi guadagna meno, perché guardi, questi 80 euro in busta paga a chi guadagna fino a 1500 euro al mese e con un meccanismo che poi cercherà di comprendere anche gli incapienti, lei comprende bene che sono una misura importante. Ora, ma certo, questi servono per chi fanno la differenza, cioè vuol dire che 14 milioni di italiani si troveranno una quattordicesima, come ha detto il Presidente del Consiglio. Questo servirà a rilanciare i consumi in un momento di contrazione, quindi direi che se le banche fanno un sacrificio, ma è un sacrificio che va nelle tasche delle famiglie, di quelli che hanno sentito più la crisi, io lo vedo. Va bene, io ho due dubbi, cioè il primo lo dico a lei, ma insomma, essendo un uomo, come dicevo prima, di rassegna stampa anche del popolo che capisce poco, non è che se le banche hanno una tassa aumentata alla fine in qualche modo, magari non chiarissimo subito, ma su chi si devono rivalere? Magari sui correntisti, e poi quindi è un giro per cui alla fine casca sempre a noi? Su correnti, è una tassa sulle plusvalenze. No, ho capito, però se la banca, come dire, trova il modo di, che ne so, aumentarti la commissione, aumentarti una commissioncina di zero, di un centesimo sul bonifico, sì, su... Però, guardi, lei si è concentrato giustamente su questa misura che andrà a colpire le banche, sì. Non ci dimentichiamo che gran parte delle risorse che vanno invece a coprire la manovra del taglio dell'IRPEF viene dai tagli della spesa pubblica improduttiva, per cui insomma poi si capirà in quali settori con il decreto del 18, però ecco, c'è l'idea che comunque lo Stato, prima di chiedere sacrifici ai cittadini, sì, si metta anche un po' in ordine, no? Metta anche un po' in ordine. Questo certamente. Allora invece vorrei chiedere all'ex sottosegretario Polillo, insomma, che ne pensa di questa cosa delle banche, perché Patuè Morelli dice sta sbagliando Renzi, lo stimo molto, ma intanto è una tassa peraltro retroattiva, cioè era già stata messa al 12%, e quindi questo vuol dire che potrebbe addirittura essere incostituzionale. Lì è un po' contrario allo statuto del contribuente, in base al quale si era deciso che non erano più ammissibili tasse retroattive, però è stato un principio disatteso più volte, quindi c'è tutto, insomma, c'è la possibilità. No, i dubbi sono di carattere più di politica economica, perché le banche, l'ETA ha fatto questa operazione d'accordo con tutto lo schieramento politico italiano per arrivare ad una maggiore capitalizzazione delle banche in un momento di grande difficoltà e di stretta del credito. Ora è chiaro che se aumentiamo le tasse diminuiscono i proventi bancari e di conseguenza il primo effetto sarà un'ulteriore restrizione del credito. Questa è un po' la cosa. Ma non è tra virgolette, questo mi sembra di capire il messaggio di Renzi, verrebbe, se venisse messa così sarebbe una sorta di ricatto da parte delle banche. Beh, come dire, il messaggio ma non è un ricatto, le banche stanno in oggettiva difficoltà, hanno sofferenze enormi, quindi hanno utili in caduta libera. Quindi lei dice, quindi, se insomma, c'è un'ulteriore stretta del credito, dice se c'è un'ulteriore stretta del credito si va a strozzare la crescita, insomma il gatto che si morde la coda. E quindi così. Ma del resto non ci sono manovre indolori, devo dire. Insomma, questo è chiaro. No, ma se dobbiamo dare 80 euro in busta paga a qualcuno, qualcun altro li dovrà tirare fuori. Non ci sia questi tagli famosi dello Stato che dimagrisce un po'. Prima sottosegretario, però ex sottosegretario Polillo, l'onorevole Bonafè ha elencato le cose, per esempio i 500 inutili visti dal governo Monti, eccetera. Perché sì, non... ma l'governo sardo, l'elenco degli enti inutili è stato compilato per la prima volta, credo, 30 anni fa. Ma perché non si riesce a incidere lì? Perché le resistenze sono enormi. Ho capito. Che butta in me la gente in mezzo a una strada. La cosa che capisco la velocità, ma ecco, tutti devono essere consapevoli che il taglio della spesa pubblica non è una cosa semplice. Questo è chiaro, questo mi sembra abbastanza chiaro, infatti aumenta sempre. Ma per esempio, le faccio una domanda diretta, il CNEL riuscirà a cancellarlo perché Renzi vuole fare questo o no, secondo lei, Polito? Ma mi auguro proprio di sì. Si augura anche lei, però con tutto il rispetto per i consiglieri del CNEL. No, ma visto che ha parlato di resistenze, visto che si parla spesso di questa palude dei burocrati, ce la farà? Cioè, quella forse è la cosa più semplice, perché riguarda un po' ex la composizione del consiglio, ex politici, ex sindacalisti, quindi tutta gente, insomma, che non è che ha bisogno del CNEL per sopravvivere. Sarà più difficile, sforbiciare le 8.000 aziende municipalizzate. Esattamente. Però vorrei capire qual è il metodo per farlo, cioè se il metodo è semplicemente fare, onorevole Bonafè, cioè che cosa, mi dica che cosa, per fare un atto di fede completo, ha in previsione il governo, avete in previsione, perché gli annunci di 30 anni stavolta siano davvero concreti, cioè qual è il meccanismo che ci sfugge al momento? Ma guardi, tanto per essere chiari, allora l'abolizione del CNEL, come le dicevo prima, è prevista all'interno della proposta di legge governativa sul superamento del bicameralismo perfetto del Senato. La proposta che in teoria, ma io penso anche in pratica, entro il 25 maggio dovrà essere approvata in prima lettura. Quindi, insomma, però quello che diceva lei prima, non so, le 32.000 stazioni appaltanti. Ma guardi, però vede, anche lì mettiamoci d'accordo, perché è vero che ci sono delle resistenze, ecco perché per l'appunto stamattina il Presidente del Consiglio ha twittato alla faccia dei gufi, quindi vuol dire che le resistenze le avverte lui e le avvertiamo tutti. Però io penso anche che uno sforzo è chiesto a tutti e tutti ci rendiamo conto che così non possiamo andare avanti. E le dirò di più, cioè questo importante documento, che è il documento di economia e finanza, si accompagna all'altro importante documento di cui non abbiamo parlato stamattina, che è il piano nazionale delle riforme, perché è evidente che tutto si tiene, cioè è evidente che il rilancio della crescita, e non parte solo dagli 80 euro che metteremo in busta paga da maggio in poi, ma parte da un insieme di riforme di cui ha bisogno il nostro paese da troppo tempo e che non sono state fatte e che stiamo iniziando a fare. Ci vogliono l'abolizione delle province, la legge elettorale, lei mi dirà non si mangia con la legge elettorale, in verità è stato smentito anche questo, perché è una legge elettorale che garantisce governabilità e garantisce ai governi di stare in carica per 5 anni, è una legge legge che produce stabilità e che quindi produce economia. No, no, ma è chiaro, a parte che vabbè, vanno fatto, cioè va finito il percorso. Solo, però, e non solo, l'abbiamo presentato, il ministro Poletti ha presentato un decreto per, diciamo, facilitare e semplificare l'assunzione nel mondo del lavoro, che sarà completato con ulteriori, diciamo, con ulteriori misure. È in programma una riforma per sburocratizzare la pubblica amministrazione, per snellirla e renderla no, più ma è chiaro, ma quello che lei dice, cioè bisogna fare le cose e cioè non si può più andare avanti così, la gente se ne deve rendere conto, sono tutti d'accordo i cittadini, ma le resistenze a cui faceva riferimento l'ex sottosegretario Polillo è che sono quelle resistenze che finora per 30 anni hanno vinto. Allora io vorrei capire, tra un attimo, dopo il traffico, l'ultima parte, che cosa c'è che al momento è sconosciuto, il potere taumaturgico certamente no, in mano al Presidente del Consiglio, per cui questa volta le resistenze verranno abbattute. Ecco, questo vorrei cercare di capire. Qual è il segreto che ha in mano per falcidiare le municipalizzate che perdono i conti, che perdono nei bilanci? Vorrei capire come farà tra poco. Allora, le 8:48 minuti, sentiamo Pier Giorgio dalla provincia di Reggio Emilia. Pier Giorgio, cosa taglieresti? Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, sì, bene. Ecco, buongiorno a lei e agli ascoltatori e agli onorevoli. Allora, sentivo parlare prima delle province. Ho un esempio concreto, 3.000 più o meno consiglieri verranno ridotti. Però c'è tutta la parte dei dipendenti, quindi la Simona Maffè diceva eliminiamo la spesa pubblica improduttiva, è giusto perché non tutto è improduttivo, ma per eliminare la spesa pubblica occorre anche pensare a cosa fare dei dipendenti, quindi i dipendenti pubblici, se abolisco un ente, fanno? Diciamo, vengono trattati come un'azienda quando c'è una riduzione del personale, viene dato un sussidio e quelli bravi che ci sono anche sicuramente nella pubblica amministrazione si rimettono in circolo in qualcosa di produttivo, oppure no, oppure vengono rimessi da altre parti. Ma lei cosa farebbe? Intanto gli enti comportano dei costi, non so, prima di Bonafè Polillo vuol rispondere lei anche come ex sottosegretario, non è che si possono prendere i dipendenti delle province e buttarli per strada, però molti ascoltatori dicono perché un'azienda privata quando fallisce è così, purtroppo accade, e invece nel pubblico non è possibile? Ma io credo che in questa fase dobbiamo applicare anche al pubblico le regole del privato, non c'è soluzione alternativa. Quindi questa è una risposta chiara. Questo significa mobilità, significa ammortizzatori sociali, se non facciamo questo diventa impossibile. Anche se l'obiezione è: ma chi è nel pubblico ha vinto un concorso e quindi, avendo vinto un concorso, è maggiormente tutelato rispetto. Beh, direi che non è sempre così. Non è sempre così, certo. Specialmente a livello locale, no, è un'eccezione. Il principio dovrebbe essere questo. Lei, Polillo, ha capito, cioè, a parte l'atto di fede, quali potrebbero essere le armi perché sia davvero, come dice Renzi, la volta o la svolta buona? Cioè per vincere quelle resistenze che immagino anche voi abbiate trovato? Guardi, io credo che ci voglia un grande accordo politico tra maggioranza e opposizione, perché se non c'è questo accordo politico le resistenze avranno una sponda nel dibattito parlamentare. E quindi diventa tutto più difficile. Ma io poi dico le resistenze anche quando bisogna tagliare, che ne so, l'ente dell'Ippica, che non esiste, per carità. Cioè poi quelle resistenze lì, cioè locali, come si vincono? Questa è la questione. Cioè, non se è un accordo politico grande, largo, sì, e allora è più facile. È più facile. Se invece non c'è l'accordo diventa tutto molto complicato. Allora, sentiamo Gabriele da Roma. Buongiorno, Gabriele. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. La mia proposta riguarda le pensioni attuali, non quelle future. Nel senso che, secondo me, la maggior parte prendono una pensione calcolata col sistema retributivo, mentre, a mio avviso, sarebbe più corretto quella contributivo, che è sicuramente inferiore. Non interverrei sulle pensioni, che ne so, fino a 2.000 euro al mese, ma intervenendo su quelle, se uno si è pagato una pensione da 6.000, perché ne deve prendere 10.000? Sì. Sui 4.000, differenza, io interverrei. Cioè lei interverrebbe, su, dice, interverrebbe sì, sulla quota eccedente al passaggio del sistema. Il calcolo contributivo, perfetto, perché è un mero regalo, parliamo di regali che stiamo pagando noi le pensioni del domani, perché non ci stanno soldi, cioè è una cosa assurda secondo me. Bisognerebbe ricalcolare tutti quelli col nuovo metodo che prendono più di quello che sarebbe col nuovo metodo, quella parte eccedente ma la toglierebbe tutta, la tasserebbe, toglierebbe metà. Su quella si interviene per vedere come gestirla, però insomma è un regalo, riduciamo il regalo. So, onorevole Bonafè, qua abbiamo dato anche, ha sentito qualche proposta dei cittadini, ma questa idea, e tu cosa taglieresti, la sapeva insomma Renzi che vuol chiedere. Ogni tanto si ritorna, anche nello scorso governo appunto l'aveva fatto Monti, e non basterebbe prendere le proposte dei cittadini. Che giacciono, immagino, no? Con mail, utilizzare quelle. Ma guardi, io penso che il governo Monti, oltre a raccoglierle, avrebbe poi dovuto, diciamo, fare, cosa che invece ha fatto relativamente, tant'è che per l'appunto stiamo parlando di riforme, e stiamo parlando di riforme su cui il nostro paese attende risposte da anni. Però guardi, mi faccio anche rispondere ho sentito alcuni interventi, tra l'altro tutti molto efficaci e utili. Le dico che però mi piaceva fare una sottolineatura, cioè io penso che prima di andare a guardare i dipendenti, andare a toccare i dipendenti, io sono assolutamente convinta, come le dicevo prima, che ci sono dei settori sui quali noi possiamo andare ad agire e recuperare risorse. Le citavo i 500 enti inutili, mi risulta da stime del Ministero che questi 500 enti inutili possano produrre risparmi fino a 10 miliardi, tanto per essere chiari. La riforma che andremo a fare sul Senato, insieme alla, diciamo, alla eliminazione di questi, o eliminazione chiaramente politica, di queste 3.000 consiglieri provinciali, produce fino a 1 miliardo di risparmi, ed è lì quando le dico che sono convinta che se creiamo le condizioni per andare a tagliare questa spesa pubblica improduttiva, sì, e non solo, per razionalizzare il sistema della pubblica amministrazione, per accorpare competenze che oggi sono diffuse su più livelli, io sono assolutamente convinta che riusciamo a, come dire, a reperire risorse importanti. Ma è lì la palude. Però il fatto che non l'abbia mai, che non si sia mai riusciti a farlo, non significa che anche questa volta si debba rimanere nella palude. Io guardi, le dico, è da un anno che sono in Parlamento, cioè sarebbe per me tragico dover rivotare la prossima volta con, per esempio, la previsione ancora del Senato. Quindi io credo che questa classe politica sia chiamata a una grandissima responsabilità, e che quella di assecondare un processo storico di riforme, ed è soprattutto quella di dare risposte a un paese che è veramente in affanno, e ce ne rendiamo conto tutti e lo sentiamo. È quello, certamente. Insomma, la palude è quella. Polillo, lei la palude l'ha vista? Lei, non so, ma esiste sta palude? Non lo so, diventerà... Beh, ci sono delle resistenze fortissime. Ci sono delle resistenze. No. Vabbè. Continua col suo atto di fede, è quasi Pasqua, su, continui col suo atto di fede. Ma io sono uno che spera nel futuro, quindi... Insomma, come tutti, e quindi speriamo bene. Va bene, dai, io vi devo ringraziare, vi devo salutare. Ringrazio l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico e Gianfranco Polillo, che è stato sottosegretario all'economia nel governo Monti, quindi due esecutivi fa. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione. Il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Potete seguirci ovunque, su Facebook ci trovate come 24 Mattino, potete scriverci 24mattino@radio24.it, e io sono su Twitter Alino Milan, se volete c'è anche il profilo 24 Mattino, e come dico spesso, ci manca solo che vediamo l'indirizzo di casa e poi ci venite a trovare come volete. A domani alle 6:30.